Adesso vi parlo di un'applicazione di MetaModello 2. Stavo correndo qui in questi giardini e mi è venuto in mente: che cosa vuol dire conoscenza? Cosa mi viene in mente la prima cosa? Conoscenza? Beh, conosco la storia della Repubblica Romana, conosco la storia del Vaticano, conosco le sinfonie di Haydn. E un altro mi può dire, ma io conosco le sinfonie di Haydn e le sinfonie di Mozart. Un altro mi può dire, io conosco le sinfonie di Haydn, Mozart e Beethoven. Quindi ci sono delle conoscenze. Ma queste conoscenze che cosa sono? Sono degli oggetti. Gli oggetti, la prima cosa che si fa, si misurano, quantità. Io conosco 10 sinfonie, tu ne conosci 20. Confronto tra due oggetti, conoscenza 10 sinfonie, conoscenza 20. Conoscenza 20 maggiore di conoscenza 10. Vado a fare un esame, rispondo, conosco 80% della materia, prendo un voto, conosco 90, prendo un altro voto. Quantità. Questo modo di pensare attraversa tutta la nostra vita e non ce ne accorgiamo, ma trasformiamo tutto in oggetti. Ora, l'importante, mi veniva quindi quest'idea, ma io adesso sono qua, mi vengono in mente delle cose, vorrei leggere dei libri. Ma leggo questo libro, poi c'è quest'altro, poi c'è quest'altro e non finisce più. Questa è la conoscenza che si trasforma in oggetti, in possesso, in avere, che viene confrontata e quindi porta poi alla competitività, alla paura, tu conosci di più, quindi vali di più, se vali di più sei più ammirata e così via. Ma se andiamo a vederla dal punto di vista del metamodello 2, non esiste la conoscenza di un oggetto. Esiste il conoscere, esiste la conoscenza come processo del conoscere. Allora ci può essere una persona che inizia a conoscere adesso la musica classica e un'altra che la conosce da 20 anni. Ciò che conta nel metamodello 2 è la qualità delle relazioni. Che tipo di relazioni instaura con la musica il principiante? Che tipo di relazioni instaura con la musica quell'altro che è un professionista? Può darsi che il principiante instauri una relazione d'amore con la musica che il professionista non ha più o non ha mai avuto. Dal punto di vista del bene, dell'evoluzione, conta di più la conoscenza sviluppata con amore o la conoscenza che si accumula con la quantità? Allora, la conoscenza quantità è una conoscenza di oggetti, come quelli del supermercato. Io riempio il supermercato di 10 tonnellate di biscotti, ma quel tipo di oggetti dietro produce solo sofferenze in chi le produce, in chi li vende, che fanno una vita difficile, faticosa. Ora, la conoscenza, anche la conoscenza del principiante, può essere una conoscenza guidata dall'amore, cioè guidata dal filtro della grande mente. La grande mente non giudica, sta nel processo, sta nel presente. Ecco perché a volte è molto più piacevole parlare di musica con uno che ne sa molto poco che con qualcuno che ha tutta la vita che ci si dedica. Quello che ne sa molto poco, magari ha il cuore aperto e convibra con ciò che sta succedendo in questo momento, e in questo momento crea una relazione non solo d'amore con la musica, ma con me che le sto parlando, con te che stai parlando con lui, con un altro, e in questo modo la nostra vita si arricchisce. Quindi, quando parliamo di conoscenze, se le osserviamo dal filtro della grande mente, avremo un conoscere che alimenta le piccole menti e un conoscere che è frutto della grande mente ed alimenta la grande mente. Questo è ciò che ci porta a sono questioni fondamentali su cui ci riporta a riflettere il metamodello 2. Okay. Ci piacciono i bambini perché i bambini sono vasi come vuoti, stanno nel presente, stanno nella relazione, per questo la loro attitudine è stare nella relazione. Quindi guardate gli occhi, guardate come sono vibranti. Ecco. Gli adulti sono spesso solo dei bambini con la testa piena di oggetti che sono ormai ammuffiti, che intasano il cervello. Ecco perché la conoscenza e lo studio può fare veramente male alla salute mentale e alla salute del corpo. Ora, lo studio fatto guidato dalla grande mente alimenta la grande mente. Lo studio che viene guidato dalla piccola mente è semplicemente un ulteriore aggravio, un incremento di piccola mente e oltretutto alimenta delle inquinanti come l'orgoglio, la presunzione, ecco queste cose. Molti intellettuali, noi, vedi, in Oriente non si considera maestro uno perché conosce delle cose, si considera maestro perché è un maestro del cuore, è un maestro di contatto, maestro di yoga, cioè, che vive e che manifesta la sua vita nel qui ed ora. È per questo che un maestro gli si sta accanto, non basta. Sì, si leggono anche i suoi libri, certo, può essere i suoi scritti, perché dentro gli scritti possono essere intrisi di quelle qualità. In Occidente le qualità delle relazioni sono assolutamente in fondo alla scala. Tu diventi professore universitario e puoi avere delle qualità delle relazioni che sono psicopatiche. Diventi lo stesso ordinario. Ecco. Questo è molto sbagliato perché affidiamo l'educazione a persone così, affidiamo l'educazione dei medici a degli insegnanti a volte che non dovrebbero insegnare, perché non hanno il cuore aperto, hanno il cuore chiuso e quindi quello che insegnano viene dalla piccola mente ed è inquinato. Ecco, questo, quindi che cosa producono? Quindi una piccola medicina, una medicina mediocre, che essendo mediocre spesso ha bisogno di mascherarsi, quindi occultarsi dietro immagini di potenza, di forza, da qui le multinazionali dei farmaci, che sembra che se uno non compra i farmaci da loro è destinato a morire. Ecco. Tutto questo è collegato al fatto che la medicina in gran parte è medicina di piccole menti. Quando la medicina diventerà medicina di grandi menti, sarà medicina della guarigione, ecco, adesso è semplicemente la cura dei sintomi. Cioè, secondo il metamodello 2 non è importante che cosa conosciamo, quanto conosciamo, il che cosa, ma è il modo in cui conosciamo. Quindi il modo in cui conosciamo lo possiamo apprendere anche se abbiamo pochissime conoscenze. E quando abbiamo appreso il modo di conoscere, che è poi una qualità delle relazioni, della relazione, dopo lo possiamo estendere a qualunque cosa che facciamo nella vita, dal lavare i piatti al pulire per terra, ad aggiustare la macchina, a scrivere sul computer. Allora, è questa qualità delle relazioni che si impara frequentando la grande mente, cioè abitando nella grande mente, che fa sì che tutte le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sogni si trasformino in qualcosa che produce gioia, anziché creare l'anticamera della sofferenza. La piccola mente imbroglia, compare l'ego, la piccola mente, cioè va dietro quelli che sono gli impulsi immediati, quello che è la soddisfazione immediata che viene insegnato nella nostra società attraverso la pubblicità. Apprendere, conoscere attraverso la piccola mente non è che incrementare ancora di più il processo della separazione, del reificare il mondo in oggetti, e reificare le persone, trasformarle in merci e quindi diventare, avere relazioni di tipo oggettuale. Come si dice in psicanalisi, bruttissima questa definizione. La relazione oggettuale, terribile, ma io non vorrei mai avere una relazione oggettuale con nessuno, eppure purtroppo viene definita così. Ecco, non ci sono oggetti, sono dei processi a cui noi partecipiamo, e delle danze, dei flussi, dei modi di suonare insieme. Questo è ciò che è essenziale.